festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese e sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il pezzo sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Così ci avventuriamo per la Roma felliniana, equilibristi in bilico sul fine settimana. Le immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri. Malinconia latente nei momenti più felici, amici per scrutabili le donne degli amici. E questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite di questo sabato qualunque. È un sabato italiano. Il petto sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Sembra, eh?